Questa sera sul parco di Oltre Festival, al parco delle Caserme Rosse, tra gli artisti ci sarà anche Franco 126. È appena tornato da Rock in Roma e lo abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Franco. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, bene. Com'è andata a Roma? È andata molto bene, è stato veramente figo. È sempre un'emozione suonare nella mia città, devo dire. Il pubblico poi è sempre molto caldo. Allora, Stanza Singola è il tuo primo album solista dopo Polaroid, invece realizzato con Carl Brave. Che cosa è rimasto del rap e che cosa invece c'è del cantautorato? Beh, guarda, del rap è rimasta probabilmente la ricerca linguistica e in generale un po' l'impostazione di alcune strofe e comunque l'impostazione mentale con cui scrivo i brani. E del cantautorato, diciamo, ci sono le melodie e le influenze nello stile dei cantautori anni 70. E forse anche un po' le tematiche? Sì, sicuramente le tematiche come l'amore, appunto, che è un po' forse il tema cardine del cantautorato italiano. Ecco, sappiamo che il tuo nome d'arte è anche un omaggio ad un grande cantautore. Che cosa c'è di Califano, sì, in te? Guarda, mi piace pensare che sia un omaggio, mettiamolo così. Comunque mi chiamano Franco da molto prima. Di Califano c'è probabilmente guarda, innanzitutto siamo entrambi di Roma e quindi, come tutti i cantautori romani, comunque la maggior parte c'è quel bagaglio di malinconia che un po' contraddistingue chi vive in questa città. E poi devo dire forse il timbro un po' ruvido e anche, diciamo, forse la zona vocale è un po' quella, no? Sempre molto, molto basso e grattato, forse anche il modo di trattare l'argomento d'amore, che è forse il tema principale anche per Franco Califano. Ecco, il tuo è un album in qualche modo senza tempo e senza spazio, anche se un po' Roma rimane e lontano dall'attualità. Ti volevo chiedere se volevi in qualche modo comunicare una sensazione, un modo di sentire, quindi trasversale, lungo la linea del tempo e senza un luogo fisico. Sì, sì, guarda, l'idea era proprio questa. Infatti mi sono allontanato da Roma, che è una cosa che facevo, ho fatto nei dischi, nel disco prima, parlavo molto di Roma. Ho voluto fare un disco che appunto magari sentendolo tra 10 anni avesse in qualche modo la stessa valenza, o comunque che preservasse gran parte del cuore, ecco. E spero di esserci riuscito, poi sarà il tempo a parlare. E quindi ho evitato di mettere dei discorsi temporali, delle cose di questo periodo storico, e ho cercato proprio di astrarmi da questa cosa, di scrivere delle robe che fossero un po' più generali e non avessero appunto questa collocazione spaziale e temporale. E questo album è prodotto da Ceri, quindi ci sono la collaborazione, sì, di Tommaso Paradiso, abbiamo Giorgio poi ci sono i cori, sì, di Fra Quintale in Fa lo stesso. Hai detto che, sì, fidarsi delle persone è fondamentale. Che cosa ci, certo, dici in merito? Niente, che penso che sia naturale avere bisogno di delle persone, avere una squadra di gente di cui ti fidi, persone con cui lavori, con cui ti trovi. Credo che capita a tutti di perdere la fiducia o comunque aver bisogno di dei consigli, o almeno capita a me, e quindi fortunatamente mi sono affidato a una serie di persone che hanno un giudizio secondo me obiettivo, lucido sulle cose. E al di là di appunto le persone che hanno prodotto il disco, Ceri, di cui mi sono fidato insieme a Giorgio, devo dire la mia etichetta Bomba Dischi mi ha molto aiutato nelle scelte, nel capire quando magari stavo sbagliando, quando ero nella giusta direzione, quando invece ero in quella sbagliata. Penso che il lavoro di squadra paghi sempre alla fine dei conti. Certo, e il punto di contatto tra tutti i pezzi è l'idea dell'hotel e il filo che li lega, sì, è la stanza d'albergo, quasi a rappresentare, sì, diciamo, la malinconia, l'introspezione nella solitudine. La stanza è anche un luogo, la metafora di un, sì, luogo interiore. Nella copertina del disco la stanza è singola, però il letto è doppio. Beh, guarda, la stanza singola, sì, è diciamo il tema cardine di questa cosa. Io ho viaggiato molto in questo periodo, nel periodo precedente alla scrittura di questo disco e durante la scrittura, perché sono stato spesso in tour, quindi mi sono ritrovato spesso da solo in queste stanze in albergo, che sono magari dei luoghi profondamente malinconici. È uscito un po' così questo tema cardine, questo tema che ritorna della stanza singola. I pezzi sono si sono poi incrociati in questa, hanno trovato questo minimo comune denominatore, no? Certo. Ed era una cosa non voluta. In qualche modo comunque la stanza d'hotel è un topos della canzone d'autore, così come lo è l'amore, no? Certo. Basti pensare a canzoni tipo Stupido Hotel di Vasco. E mi piaceva che questo fosse, che questo disco avesse in generale delle caratteristiche proprio di quei dischi là, che certo, a me mi hanno segnato molto. Questo tipo di impronta? Sì, quel tipo di impronta lì. Grazie, ciao, ciao, ciao. E lo sai che era buono il caffè. Non volevo certo stare qui a parlare di te. Ora è tardi e sono stanco, non penso neanche di uscire il weekend. Ma no, non è niente, due linee di febbre. Lo so, non gira bene, però non dipende da me. Mi chiami occupato, ti chiamo occupato. La frase sbagliata, al momento sbagliato. Poi t'ho abbracciato come a fine partita ed ho asciugato le lacrime indifferite. E io ancora faccio slalom tra i miei guai. Qualcosa si è guastato tra di noi. Io t'ho detto vai, tu mi hai detto rimani. E ho tirato quel pallone in mezzo ai rami. Non lo sai che non sopporto il ginseng. Non volevo certo stare qui tra i forse perché ci ho pensato così tanto che al momento sto alla mazza caffè. Non so che ti prende, lo sguardo un po' assente. Sembra che tu non voglia proprio più saperne di me. Lo so ci hai provato, lo sai ci ho provato. Ma è acqua passata, mi parli al passato. Poi ho esultato come a fine partito. Ho sentito il vento passare tra le mie dita. Io ancora faccio slalom tra i miei guai. Qualcosa si è guastato tra di noi. Io ti ho detto vai, tu mi hai detto rimani. E ho tirato quel pallone in mezzo ai rami. Voglio solo respirare un altro po' del tuo fumo passivo e non tornare a casa. Sbagliarmi apposta al bivio, incastrarti tra i capelli. Tutto all'ultimo minuto, rompiamo con le dita gli anelli di fumo. E scusami se non mi metto mai a nudo, se lo facessi mi sentirei messo al muro. Io che sono sempre il solito sprovveduto, perdo le staffe quando dovrei stare muto. E ritrovarmi in una scena che mi sembra già di aver vissuto, come in fondo l'avessi sempre saputo. E io ancora faccio slalom.